Per prima cosa, mettetevi comodi. All'inizio è meglio che vi sdraiate sul vostro letto o su di un divano, con le gambe e la testa in posizione comoda. Assicuratevi che mentre vi rilassate, sciogliendo i muscoli, la testa rimanga sorretta, in modo che non possa assumere una posizione scomoda. Non c'è bisogno che alcun muscolo sia in tensione per mantenere la posizione. È consigliabile che la stanza sia in penombra. Staccate il telefono per evitare distrazioni. Ora siete pronti per cominciare. Quarto volume della settimana di Eclettica in compagnia di Giulio Caperdoni, sia che lo stiate ascoltando sulle frequenze reali in diretta, sia che lo stiate ascoltando in differita, grazie al podcasting. Giulio Caperdoni in vostra compagnia per un'ora di musica, cinema e lettura. Uno, due, tre. Se chiudi la porta, la notte potrebbe durare un'eternità. Lascia fuori la luce del sole e di addio al mai. Tutta la gente balla e si diverte tanto che vorrei potesse succedere anche a me. Ma se chiudi la porta, non sarò più costretta a rivedere il giorno. Se chiudi la porta, la notte potrebbe durare un'eternità. Lascia fuori un bicchiere di vino e fai un brindisi al mai. Ah, lo so che un giorno qualcuno mi guarderà negli occhi e mi saluterà: sei il tipo che fa per me. Ma se chiudi la porta, non sarò più costretta a rivedere il giorno. Bar per feste buie, Cadillac lucide, e la gente nei metro o nei treni, faccia grigia sotto la pioggia, mentre se ne sta in piedi confusa. Ah, ma nel buio la gente è bella. Se chiudi la porta, la notte potrebbe durare un'eternità. Lascia fuori la luce del sole e di addio al mai. Tutta la gente balla e si diverte tanto che vorrei che potesse succedere anche a me, perché se chiudi la porta non sarò più costretta a rivedere il giorno, non sarò più costretta a rivedere il giorno, ancora non sarò più costretta a rivedere il giorno. Questa era After Hours di Lou Reed. Tell all the boys and girls from school to keep breaking all the rules, to let their parents know they're in the truth. Dutch roof flakes off from your lips, you've lost the swagger in your hips, your eyes are turning into gray. Your skin feels soft and sagging down, your arms drag across the ground with your step of day. And they fall from the chin of chin. And they fall, piss away each night among the sound of bodies. I can smell their flesh on everything left in this room. Chalk and scattered crayons on empty beds. 4 weeks finding clumps of unwashed hair caught between the vents. Oh. And they fall from the jungle chair. And You know, there's something you said to me a few days ago that I just cannot get out of my mind. Something about you and Molly having children. Oh, right. Yeah, no, that was hypothetical. That's not something that we're talking about doing anytime soon. You know what I did, Carl, when I started dating again? No idea. I got a vasectomy. A vasectomy? Yeah. Okay. It's a little extreme, don't you think? Not really. It's a mild outpatient procedure. The local anesthesia, snip, snip, send a bag of frozen peas for a night. Voila. I mean, that was it. And it's... ...100% effective. Yeah. And 100% permanent. Carl, read the literature. It is reversible. 70% of the time. Mercury Blood, il brano che ci siamo appena ascoltati da parte di Jennifer Gentle, una scelta diversa dal loro ultimo per Sub Pop rispetto a quella già fatta all'interno di Eclettica. Poi usare il plurale per Jennifer Gentle è un po' improprio, visto che ormai è diventata una formazione ad uno. Però voglio spendere qualche parola di più sia sul brano che vi siete ascoltati in apertura di Eclettica, sia su quello che sta per arrivare. Partiamo da quello che avete già ascoltato. Erano i Murder by Death, che tanto abbiamo ascoltato nei mesi scorsi con Brother, estratto da In Bocca al Lupo, titolo in italiano per un disco che però proviene dagli Stati Uniti. Il successo di quel disco è stato tale che sono state ripubblicate tutte le loro prove precedenti che mi sono arrivate in settimana, dall'esordio Like the Exorcist but More Breakdancing al disco che invece vi siete ascoltati, Who Will Survive and What Will Be Left of Them, un disco in cui comunque erano già presenti in nuce molte delle caratteristiche che poi abbiamo ritrovato nel disco In Bocca al Lupo già citato. Invece è una storia molto particolare quella che vi sto per raccontare. Se ci sono musicisti all'ascolto che conoscono le difficoltà che si hanno nel trovare un contratto discografico, questa storia può sembrare un po' surreale. Ecco, lei è arrivata al suo contratto discografico facendo la babysitter per i figli di Tom Waits. È tutto vero, tutto verissimo. Tom Waits ha cominciato ad ascoltare i suoi demo e poi ha fatto in modo che lei ottenesse un contratto, per cui farà uscire il suo disco solista nel prossimo mese di settembre. Nel frattempo è in tour negli Stati Uniti assieme ai Polyphonic Spree e fra l'altro nel disco in questione suona anche Stuart Copeland con la sua batteria. Lei si chiama Jessica Hoop. It's nice. Fermo all'angolo, la valigia in mano, Jack indossa il corsetto, Jane il proprio gilet e io? Io sto in una rock and roll band, a bordo di una Stats Beercat Jim. Erano altri tempi, sai. Tutti i poeti studiavano le regole dei versi e quelle signore strabuzzavano gli occhi. Dolce Jane, dolce Jane, dolce Jane. Ti dico una cosa, Jack, lui, lavora in banca e Jane, lei è una commessa. E ambedue mettono i soldi da parte quando tornano a casa dal lavoro. Seduti accanto al fuoco, la radio trasmette un po' di musica classica. Jim, la marcia dei soldatini di piombo. Tutti voi, ragazzi ribelli, potete sentire Jack che dice «Dolce Jane, dolce Jane, dolce Jane». Ad alcuni piace andare a ballare e altri invece devono lavorare. E ci sono addirittura delle madri sciagurate che, ecco, ti diranno che fa proprio tutto schifo. Sai che le donne non svengono mai veramente? E che i mascalzoni fanno sempre l'occhiolino? E sai che i bambini sono gli unici ad arrossire ancora? E che la vita è fatta per morire? Ma chiunque avesse avuto un cuore non avrebbe voltato le spalle per spezzarlo. Chiunque abbia mai recitato un ruolo non avrebbe mai voltato le spalle, odiandolo. Dolce Jane. Questa era Sweet Jane di Lou Reed. We'll be right back. So you really were serious about Audrey Hepburn, huh? She had it all. Style, grace, ethereal beauty. Just like I thought Mandy did. I don't know, I have a hard time imagining Audrey Hepburn getting buttered up to Funky Col Medina. Really? Hmm. I don't. The lack of light, hollow sea, poison beaches, limousines, toothless dentists, cops that kill. My baby's got è il momento dei ritorni in Eclettica, è il momento dei ritorni in quanto ci siamo appena ascoltati Emily Haynes and the Soft Skeleton, che non compariva nelle ultime settimane ma che comunque nell'ultimo periodo è apparsa spesso appunto con questo pezzo Dr. Blind, e queste apparizioni sono state molto gradite, me ne sono accorto, mi avete dato segni evidenti di tutto ciò, ed è il momento dei ritorni anche perché ci stiamo per riascoltare Hey You, però non con il solito brano, non con il solito ukulele. Infatti ho voluto chiudere questa prima parte di Eclettica di quest'oggi con una scelta diversa. Thank you. Thank you.